Ciao a tutti ragazzi e ragazze. Magari state ascoltando perché, state ripassando per le vacanze o siete semplicemente curiosi di storia. Oggi facciamo un tuffo, indietro nel tempo, nel Medioevo. E cerchiamo di capire una cosa importante, Come sono nati gli stati, quelli un po' più simili a come li conosciamo oggi. Vedremo come da tanti piccoli poteri, sai, signorotti locali, si è arrivati a regni belli grossi e forti. Poi parleremo di una guerra, mamma mia, lunghissima, la guerra dei cent'anni, e anche di un personaggio pazzesco, quasi una supereroina, Giovanna d'Arco. Abbiamo un po' di domande guida. Allora, la prima, bella diretta, ma uno Stato, che fa? Cioè, quali sono i suoi compiti? Questa è la domanda base, giustamente. Beh, uno Stato, diciamo in parole semplici, si occupa di governare un certo territorio con dei confini precisi. Poi deve mantenere l'ordine, la pace interna, no? E difenderlo se qualcuno attacca da fuori. E poi, importantissimo, amministrare la giustizia, far rispettare le leggi. Sono, diciamo, le funzioni fondamentali che proprio in questo periodo iniziano a organizzarsi meglio. Ok, chiarissimo. Però, com'è che si passa? Sai, da tanti piccoli centri di potere, magari un castello qui, un feudo là, a un re che comanda su un territorio enorme. Qual è stata la svolta? Beh, la svolta vera è stata l'affermazione della monarchia. Cioè un sistema di governo dove il potere si concentra sempre di più, nelle mani di una persona sola, il re o la regina, ovviamente. È proprio questa centralizzazione, questo mettere insieme i poteri, il punto chiave. Ma attenzione, non è successo in un attimo. È stato un processo lungo, pieno di difficoltà. Capisco. E quali sono stati i primi regni in Europa a diventare così? Così forti? Le prime monarchie nazionali, si dice così? Esatto, monarchie nazionali. Le prime a consolidarsi bene in questo senso sono state la Francia, l'Inghilterra e poi anche la Spagna, che proprio in quel periodo stava, diciamo, mettendo insieme i vari regni che c'erano prima. E il centro di tutto questo nuovo potere? Dov'era? Immagino non fosse solo un palazzo, ecco. No, certo. Il cuore pulsante era la corte del re, che non è solo un edificio, È l'insieme di tutte le persone che contavano e che stavano attorno al sovrano. Nobili, cavalieri, certo, ma anche funzionari, scribi, consiglieri e poi artisti, musicisti. Pensa che a volte potevano essere centinaia di persone. Vivevano lì, lavoravano per il re, lo aiutavano a governare e anche a far vedere quanto era potente. Caspita, centinaia, immagino un gran via vai. Ma concretamente, per farsi obbedire in tutto il regno, che strumenti usava il re? Non bastava dire si fa così, immagino. Non bastava per niente. Servivano principalmente due cose. Primo, un gruppo di persone fidate, i funzionari, sparsi sul territorio. Diciamo, l'inizio della burocrazia. Loro amministravano, facevano rispettare le leggi del re e, cosa fondamentale, riscuotevano le tasse. Senza soldi niente è stato forte. E secondo, serviva un esercito potente e possibilmente fedele solo al re, non ai vari signori locali, per mantenere l'ordine dentro e difendere i confini fuori. Ah, quindi funzionari per amministrare e riscuotere e soldati per farsi rispettare. Mica semplice metterli insieme e pagarli tutti, Per niente facile, soprattutto all'inizio. E questo mi porta dritto alla prossima domanda. Questi stati nuovi, più forti, avranno iniziato a pestarsi i piedi a vicenda, no? Tipo Francia e Inghilterra nella guerra dei cent'anni. Ma perché è scoppiata? Cosa volevano? Beh, le cause sono state un bel po' aggrovigliate, sai. Da una parte c'erano questioni di chi doveva diventare re di Francia. Il re d'Inghilterra diceva, tocca a me, per via di parentele strane. Dall'altra c'era il controllo di zone ricche e strategiche in Francia, tipo le Fiandre o la Guienna. Erano terre francesi, ma gli inglesi ci avevano messo gli occhi sopra o le controllavano già di fatto. Insomma, potere e soldi, come spesso accade. E guerra dei cent'anni, mamma mia, già il nome fa impressione. È durata davvero così tanto. E la prima parte, fino al 1429 più o meno, com'è andata per la Francia? Guarda, un disastro, un periodo nerissimo per i francesi. Hanno perso battaglie importantissime, tipo Crécy, Poitiers, Azincourt, sconfitte pesantissime. Pensa che gli inglesi avevano un'arma micidiale, gli arcieri, addestratissimi, con archi lunghi che bucavano le armature dei cavalieri francesi da lontano. Davvero? Addirittura le armature? Incredibile. Eh sì, la Francia ha perso un sacco di territori, ha avuto re deboli, c'erano pure lotte interne tra nobili. Sembrava proprio che non ci fosse più speranza. Però poi le cose cambiano, giusto? Quando tutto sembra perduto, salta fuori questa figura, quasi da film. Esattamente. Proprio quando la situazione era disperata, nella seconda fase della guerra dal 1429, ecco che arriva lei, Giovanna d'Arco. Una ragazza giovanissima, veniva dalla campagna. Diceva di sentire delle voci divine che le dicevano di salvare la Francia. Sembra incredibile, ma riesce a farsi ascoltare dal futuro re, Carlo VII, e ottenere un esercito. E la cosa pazzesca è che il suo coraggio, la sua fede, hanno contagiato tutti. Ha guidato i soldati, li ha caricati e hanno vinto l'assedio di Orléans. Quella è stata la svolta. Wow, una storia incredibile davvero. Ha ribaltato tutto. Proprio così. Purtroppo per lei è finita male, tragicamente. L'hanno catturata ai nemici, processata e bruciata sul rogo come eretica. Una fine terribile. Ma il suo intervento, è stato decisivo. Ha ridato fiducia e slancio ai francesi. Hanno iniziato a riprendersi, a cacciare gli inglesi e alla fine, nel 1453, hanno vinto la guerra. E questo ha rafforzato tantissimo il re e l'idea stessa di essere francesi. Bene, allora, ricapitolando un attimo. Abbiamo visto che nel Medioevo l'idea di Stato cambia. Nascono queste monarchie forti, con la corte, i funzionali, gli eserciti. Però questa forza porta anche a guerre lunghissime e terribili, come quella dei cent'anni. E a volte figure un po' fuori dagli schemi, come Giovanna d'Arco, possono cambiare tutto. Sì, è affascinante vedere come questi elementi, il potere centrale, l'importanza dell'amministrazione, dell'esercito, ma anche, guarda caso, la forza dei simboli, delle storie, degli eroi come Giovanna d'Arco per unire un popolo, siano proprio le basi degli stati moderni. E forse uno spunto su cui riflettere è proprio questo. Quanto contano ancora oggi le storie che ci raccontiamo, i simboli, le figure eroiche, nel farci sentire parte di una stessa comunità, di una nazione? Ottimo spunto. Grazie mille per questo viaggio nella storia. Alla prossima.